D'Agostino, fermati e ascolta. Stiamo attenti. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Pubblicità. Pubblicità. Pubblicità. Pubblicità. Siamo in tanti e andiamo avanti. Insieme siamo giganti. Ogni giorno metti la sveglietta. E quando suona alle 18, corri in canaretta. Il cammino non ti aspetta. È vero, è vero. Tra di noi e cammino, cammino nel mio giardino è come un soldatino e cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino. Zingaro libero fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro, ballerò in equilibrio, fino all'ultimo giorno, fino al prossimo giro, non posso fare male, nemmeno un animale, nemmeno, nemmeno un moscerino. concertato e sono solo un numero. È la televisione, è l'inflazione, preferisco il surf. Preferisco andare in alto mare, rischiare di restare là, come un faro spento in mezzo al vento e all'umidità. E cammino, cammino nel mio giardino e come un soldatino. E cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino. Tiro, ballerò in equilibrio sotto gli occhi distanti del nostro destino. Ma lasciatemi stare, lasciatemi andare, non posso pensare di fare del male. Nemmeno un animale, nemmeno un fiorellino, vuoi del brano che ti ascolta ogni giorno su www.ggita.com. A scegliere il sito che ti saprà la paginetta. E lì dentro troverai l'elenco dei brani. A fianco ad ogni brano c'è il simbolo della cuffietta. Clicchi e vota la canzone. No, se no, desisti. www.ggitagostino.com. Pom pom porom porom pom. Non passare dei pomeriggi tristi e lisci. Vota il brano che preferisci. Non mi vedi, ma che ha fatto di questo? Capito? Sì. Sono con te. che sto. Ma quando la piscio, parte ben fresco. Ma che ne so che cazzo. ci colleghiamo col Celestino di Scobar. Momento aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Ma che è? Per folclorista. Dai, HD. Il cammino di Gigi D'Agostino. Bello, bello, questo mi piace. Passo folk è il titolo del brano, è Passo folk, è facile. Avete mai sentito parlare di quel presentatore che comincia le frasi e poi dopo? A cosa? Yeah.

together. Sono Gigi, l'ho già detto, ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.